Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro decimo, versi 503-739. Mirra, figlia di Cinira, re sacerdote di Cipro, ha concepito nel coito incestuoso col padre un bambino. Trasformata in albero, piange lacrime profumate che hanno il suo nome, ma non riesce a partorire. Ma il bambino mal concepito cresceva sotto la scorza e cercava uno sbocco qualsiasi per tirarsi fuori e lasciare la madre. A metà dell'albero s'è gonfiata una pancia di mamma, tutta tesa dal carico. Ma le doglie non hanno parole, non ha voce per invocare Lucina, la pianta pregna. Pianta che sembra comunque sopraparto, si piega, cigola rantoli fitti fitti, s'imperla tutta di stille. E Lucina, fatta pietosa, raggiunge quei rami dolenti, poggia la mano sul tronco e pronuncia la formula sacra. Nell'albero s'apre una crepa e dalla corteccia slabbrata spunta un essere vivo, un bambino che vagisce. Sopra l'erbetta lo stendon le naiadi e lungono con le lacrime della sua mamma. Si arrenderebbe l'invidia in persona a tanta bellezza. Quel corpicino era quello degli amorini nudi dipinti su tavola, salvo per un dettaglio, la frivola faretra. Ma puoi sempre metterla a lui o toglierla a loro. Il tempo vola via di nascosto e non c'è cosa al mondo più veloce degli anni. Il figlio di sua sorella e di suo nonno, a suo tempo annidato nella corteccia, nato a suo tempo bambino bellissimo, poi ragazzo, poi giovanotto più bello, perfino di sé, perfino a Venere piace, così vendicando la mamma. Il fanciullo con la faretra un giorno sbaciucchia sua madre e per sbaglio le punge il seno con una freccia sporgente. Punta, la dea lo scaccia, ma la ferita è più incisa di quanto non sembri ed inganna a tutta prima anche lei. E lei, vittima della bellezza, della sua citera non sa più che farsene, più non frequenta Pafo e i suoi fondi marini, né Cnido e tantomeno le fonderie di Amatunta. Diserta anche il cielo. Al cielo preferisce il bellissimo Adone. Non lo molla, sta sempre con lui, abituata com'è a starsene all'ombra e curare la propria bellezza accrescendola. Ora si sbatte per vette, foreste e dirupi, tra i rovi, con la veste al ginocchio, alla moda di Diana, e aizza i cani a caccia di bestie non troppo pericolose, le protti che schizzano come li vedi, cervi con tanto di corna, magari caprioli. Invece dai cinghiali si guarda bene, evita i lupi da preda e gli orsi armati di unghioni e i leoni che per cavarsi la fame sgozzano armenti. E tenta di mettere in guardia anche te, sperando di indurti alla prudenza, Adone. Con le bestie che scappano fatti valere, quelle aggressive, aggredirle può essere un rischio. Non fare sciocchezze, ragazzo, con pericolo anche per me. Non provocarle, le belve armate dalla natura, non dovesse costarmi troppo la tua gloria. La giovinezza, il fascino che hanno incantato Venere, non incantano leoni e cinghiali. Alle belve non toccano occhi né cuore. I cinghiali villosi hanno il fulmine nelle zanne ricurve. La rabbia dei leoni rossicci è mostruosa. La loro violenza è selvaggia. Detesto la razza. E al ragazzo che le chiede perché, sta a sentire. Risponde: antico il delitto, prodigioso il castigo. Ma questa fatica in più mi sta già stancando. Fortuna che un pioppo qui ci procura l'ombra del caso ed il prato un comodo letto. Ti andrebbe se ci sdraiamo vicini? E si sdraia per terra, schiaccia l'erba, stringe il ragazzo che è steso supino e poggiandogli la testa sul petto racconta questa storia. Intanto intercala le sue parole coi baci. Non so se hai sentito parlare di una che in corsa batteva anche i più svelti fra i maschi. Non ti sto raccontando una favola, li batteva davvero. Difficile dire se ti colpiva di più la velocità dei suoi piedi o la sua avvenenza. Che fa? Si sposa? Interpella l'oracolo e quello: sposarsi non fa per te, non pensare al marito, Atalanta. Anche se non potrai evitarlo e da viva cesserai di essere chi sei. Atterrita da quel responso, lei passa il suo tempo nei boschi, nubile, e si sbarazza di frotte di pretendenti con questo ricatto: io non sarò di nessuno se prima non mi avrà vinto alla corsa. Misuriamoci con i piedi. Chi sarà più veloce di me mi avrà per premio nel letto. Chi più lento, però, patti chiari, dovrà morire. Spietata, d'accordo, ma tale la potenza della bellezza che a quel ricatto si prestano le frotte dei pretendenti. Fra loro Ippomene stava seduto e assisteva all'assurda gara, dicendo: possibile per farsi una donna rischiare tanto? Così deprecava la follia d'amore dei giovani. Ma quando lei si spogliò nuda e lui vide quel corpo strepitoso, più bello del mio o del tuo se tu fossi una donna, tramortì, si arrese e gridò: ragazzi, dovete scusarmi se fino a un attimo fa vi prendevo in giro. Ignoravo di che premio si tratta. La guarda attonito e prende fuoco, e tremante di gelosia s'augura che nessuno la batta in velocità. Ma perché non tento la sorte mettendomi in gioco anch'io? Almanacca fra sé: gli dèi premiano i coraggiosi. E mentre Almanacca fra sé, Atalanta gli sfreccia davanti come avesse le ali ai piedi. Ma per quanto tra secoli Ippomene, il giovane di Beozia, di vederla volare più rapida d'una saetta di Scizia, la bellezza della ragazza lo impressiona ancora di più, tanto più che la corsa la rende ancora più bella. Sollevata a volo su piedi calzati di sandali d'oro, sulle spalle d'avorio le ondeggiano i capelli, contro i ginocchi le svolazzano le ginocchiere con gli orli ben ricamati. Per entro il candore del corpo di vergine un punto di rosa trapela, come in un atrio di candido marmo un velo di porpora al bianco trasmette l'ombra del suo colore. Lo straniero sta registrando queste cose che lei, tagliato il traguardo, festeggia il trionfo col serto del vincitore. Piangono gli sconfitti e scontan la pena prevista. Ma Ippomene non si lascia scoraggiare dal loro destino, si fa avanti e, piantando gli occhi in quelli della fanciulla: come mai cerchi facile gloria battendo i netti? Misurati con me, che se la fortuna mi assiste non avrai certo di che lamentarti che a vincerti sia stato quello ch'io sono. Mio padre è Megareo di Onchesto, suo nonno, per dire, è Nettuno. Mi vedi così pronipote del re degli oceani, e il valore mi vale più della nascita. Se vinci tu, puoi vantarti d'aver vinto Ippomene, titolo imperituro di gloria. Lui parla, e Atalanta, figlia di Schenio, lo guarda, e guardandolo si squaglia, e adesso non sa se vuol vincere o essere vinta, e pensa: Che Dio, geloso degli uomini belli, vuol perdere questo qui, spingendolo a mettere a rischio la sua preziosissima vita pur di sposarmi? A pensarci non valgo tanto, e non è tanto il suo fascino a toccarmi, toccarmi mi tocca, ma è che è ancora un ragazzo. Più che lui mi turba l'età. Come? È così coraggioso che non trema davanti alla morte? Come? È davvero il quarto discendente del re delle acque? Come? Mi ama tanto, ci tiene tanto a sposarmi, da morire, se un brutto destino mi dovesse negare a lui. Vattene finché puoi, straniero, rinunciaci a queste nozze di sangue. Sposarmi è una crudeltà, rifiutarti non ti rifiuta nessuna, troverai qualche brava fanciulla. Ma perché mi preoccupo tanto dopo averne fatti ammazzare tanti? Son fatti suoi. Se la strage dei miei spasimanti non lo ha messo in guardia, vuol dire che alla vita lui non ci tiene. E allora? Siccome voleva vivere insieme a me, morrà. Sconterà morendo senza colpa la colpa di amarmi. Poco invidiabile cosa sarebbe una mia vittoria, ma è mia la colpa. Ah, se tu avessi il buon senso di andartene, ho visto che hai perso la testa, se corressi almeno più svelto di me. Che sguardo innocente in quegli occhi da ragazzino, povero Ippomene. Come vorrei non mi avessi mai vista. Meritavi di vivere. E se io avessi un po' più di fortuna, eri l'unico tu con cui avrei voluto dividere il letto. Questo pensa, e ingenua com'è, visitata dal primo amore, non sa che succeda, ed ama non sospettando di amare. Il popolo e il padre di lei pretendon la solita gara, che Ippomene, il nipotino di Nettuno, con voce affannata invoca me. Citerea, ti supplico, assistimi, dice, nell'impresa, asseconda l'amore, dice, che acceso mai dentro. Un venticello propizio mi porta quella preghiera struggente, e io mi commuovo, lo confesso, bando agli indugi. C'è un terreno. La gente del posto lo chiama Tamaso, ed è la parte più bella dell'isola di Cipro, a me dedicata dagli antichi, che vollero destinarla in donazione ai miei templi. Al centro del campo spicca un albero, con una sua chioma ruggine, e rami che crepitan d'una loro ruggine d'oro. Vuole il caso? Io venissi di lì, e portando con me, colti appena, 3 pomi d'oro. Invisibile a tutti, tranne che a Ippomene, lo abbordo e gli spiego per bene come usare quelle 3 mele. Squillo di tromba, e protesi in avanti, si avventano i 2 dalle gabbie della partenza, rasentando appena l'arena. Volerebbero a pelo di mare, senza diresti bagnarsi i piedi, o su un campo di grano senza piegare una spiga. Applausi, incitamenti sostengono il giovane. Gli urlano: «Dai, dai, non perdere l'attimo buono, attacca, ma ora! Spingi forte, Ippomene, dai, ce la devi mettere tutta! Forza, attacca che vinci!» E non sai se urla del genere facciano più piacere al figlio di Megareo o alla figlia di Scheneo. Oh, le volte che lei, sul punto di sorpassarlo, rallenta per vedergli la faccia e subito se la perde e le dispiace. Ma la fatica comincia a seccare la bocca di lui e il traguardo è ancora lontano. È allora che il nipotino di Nettuno lascia cadere la prima delle 3 mele. La ragazza non crede ai suoi occhi e, attratta dallo splendore del pomo, devia la sua corsa per raccogliere quell'oro che rotola. Ippomene la sopravanza, applausi dalle tribune. Ma lei forza il passo, recupera il tempo e lo spazio perduti e torna a lasciarsi alle spalle il nostro eroe. Ma lui molla in terra la sua seconda mela, lei resta indietro, lo insegue, lo risorpassa. Non avanza che l'ultimo tratto di pista e lui fa: «Dea, m'hai messo a portata il regalo, ora dammelo!» E con tutta la forza lancia fuori di pista, lontano, quello splendore di mela che lei perda più tempo possibile. Lei non sa se raccogliere o no. A farlo io l'ho costretta e una volta raccolta la mela l'ho pure aumentata di peso, ostacolandola tanto con la sosta quanto col carico. Non vorrei che il racconto venisse più lungo però della corsa. Basta, la Vergine perde, il premio va al vincitore. Dimmi tu, io non meritavo che quello mi ringraziasse bruciandomi incenso? Niente, né un grazie né un grano d'incenso. Allora, Adone, che faccio? Vado su tutte le furie. Disperata per quello sfregio, ad evitarne il ripetersi, decido di dare un esempio. Me la prendo con tutti e due. Eccoli lì che passano davanti a un tempio, votato alla madre di tutti gli dèi dal buon Echione e nascosto in un bosco. Il lungo cammino esige che si riposino. Istigato da un nostro influsso divino, Ippomene è preso da una voglia sconsiderata di fare l'amore, ma subito. C'era vicino al tempio una cella in penombra, più o meno un grottino con la sua volta naturale di tufo, sacro a un antichissimo culto, e stipato dal sacerdote di statuine di legno degli antichissimi dei. Infilatisi lì, sacrilegio, fecero quello che fecero. Le icone girarono gli occhi, la madre turrita di tutti, poco manca non voglia affogarli nella fanghiglia di Stige. Però le sembra un po' poco. Allora quei colli gentili li copre con una criniera rossastra, le dita diventano unghioni, le spalle attacchi di zampe. Si sposta sul petto il peso del corpo e con tanto di code frustan la sabbia. Hanno musi rabbiosi, non parlano, brontolan solo ruggiti. Per soggiorno usano i boschi, spaventosi per tutti a eccezione di cibele, cui mordono il freno con bocche servili. Leoni. Tu questo tipo di belve che se le vedi non scappano, ma ti vengono incontro per mordere, fai tanto, amor mio, di evitarle. Scappa, che tanto coraggio, due che siamo, non ci danneggi. Lei lo ha messo in guardia e col suo bel equipaggio di cigni vola via. Ma il vero coraggio non si lascia mettere in guardia. Così succede che i cani, braccato un cinghiale sul fiuto, l'hanno stanato e costretto a venir fuori dal bosco e che con la picca il giovane Adone lo imbrocchi di sbieco. Un attimo e la bestiaccia col ceffo ricurvo si strappa di dosso la lancia zuppa del proprio sangue, si avventa sul ragazzo che scappa, gli caccia sotto l'inguine quanto son lunghe le zanne. E sopra la ruggine della sabbia lo stende a morire. Tradotta per l'aria sul carro leggero, la dea di Citera non è ancora atterrata a Cipro con ali di cigno che avverte da lontano il rantolo fioco del morente e inverte la rotta dei candidi uccelli, finché dall'alto del cielo non vede quel corpo svuotato d'anima in una pozza di sangue e salta in terra e si strappa la veste e si strappa i capelli e prendendosi a pugni il petto con mani non fatte per quello si risente coi fati. No, no, Non tutto obbedisce alle vostre leggi. A futura memoria di questo mio lutto perpetuo, ogni anno verrà replicata la scena della tua morte, a testimoniare in eterno il mio strazio. Adone, mio Adone. Il sangue si cambierà in fiore, se ti han consentito, Persefone, di trasformare una donna in pianta di menta profumata. Che c'è di male se adesso son io che trasformo quest'eroico figlio di Cinira? Ciò premesso, versa nel sangue essenza di nettare, e il sangue, a contatto di quella, comincia a fermentare, così come sotto la pioggia si gonfiano nel fango bolle traslucide. Non passa nemmeno un'ora che da quel sangue è spuntato dello stesso colore un fiore come quello del melograno che sotto la scorza sottile nasconde i chicchi, ma è fiore di brevissima vita, attecchisce male, leggero, troppo fragile. Il vento stesso che gli presta il suo nome, da Anemos, Anemone, è lui che lo strappa. Le Metamorfosi di Ovidio, l'editore Rizzoli, la traduzione ma anche la voce è quella di Vittorio Sermonti. Siamo alla 28ª puntata di questa sequenza. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Qui era ingegnere del suono Matteo Bolzoni. Attenzione, le Metamorfosi saranno riascoltabili in streaming solo per il periodo della messa in onda. Persi le forze mie, persi l'ingegno, che la morte m'è venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11 un quarto io mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate, la lingua mi diceva andate, andate. Le 11 un quarto io mi sento ferito, le 11 e mezza mi sento morire, la lingua mi cercava le parole, e tutto mi diceva che non giova, e all'11 e mezza mi sento morire, mezzanotte m'ho da confessare, cerco il perdono dalla madre mia, e questo è un da fare, io a mezzanotte m'ho da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare, ma io quella notte volevo parlare, e non può, non può, può più parlare, può più parlare, non può, non può, può più parlare, può più parlare, non può, non può, può, può più parlare. Persi le forze mie, persi l'ingegno, che la morte m'è venuta a visitare. Questo regno, persi le forze mie, persi l'ingegno.